Summit è andato abbastanza male, nel senso che le aspettative, che ovviamente erano molto alte, anche in virtù di quello che è stato il primo summit tra il leader nordcoreano Kim e il presidente Trump a Singapore dello scorso anno, insomma, assieme a questa cena che è stata svolta in forma più privata rispetto al primo summit tra i due, lasciavano, se non altro in forma, diciamo, di opinione pubblica, lasciavano intendere che le aspettative, insomma, potessero essere alte. In realtà, già questa mattina, orario di Hanoi, per noi era ancora notte, i frutti di un improbabile accordo andavano svanendo, infatti l'accordo non c'è stato, i frutti non si possono raccogliere almeno per il momento. E quindi il summit è andato senza ombra di dubbio male, perlomeno dal punto di vista di chi si aspettava qualche accordo di qualche tipo e un qualche sviluppo pratico nelle relazioni tra i due paesi. Ecco, invece ti chiederei anche com'è andato secondo te dal punto di vista dei due leader che erano coinvolti, quindi diciamo che cosa significa per Trump da una parte e per Kim dall'altra. Ma senza ombra di dubbio, dal punto di vista, cioè inquadrato come un processo storico e politico, naturalmente il riavvicinamento o in qualche modo, insomma, lo sviluppo di un dialogo tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti ha fatto sentire la propria influenza nel quadrante dell'Asia nord-orientale, nel senso che indubbiamente va riconosciuto che l'area è stata interessata da una fase di stabilità in questo, almeno nell'ultimo mezzo anno. Dal punto di vista dei due leader, naturalmente Trump ne esce, credo, fortemente indebolito, soprattutto alla luce delle grosse aspettative che si erano nutrite proprio dalla propaganda, se mi passate il termine, agita dalla Casa Bianca. Dall'altro lato, Kim credo che non abbia fatto niente di diverso rispetto a quello che ci si aspettava, secondo un'analisi un po' più approfondita, ovvero non abbandonare il programma nucleare, non abbandonare il dispositivo nucleare in toto solo alla luce di un parziale, iniziale, embrionale avvicinamento e apertura di un canale di comunicazione con gli Stati Uniti. Ovvero Trump essenzialmente non ha presentato un piano B rispetto a quello che poteva essere quello che poi si è verificato, ovvero l'indisponibilità del leader nordcoreano di abbandonare completamente il programma nucleare a favore, in virtù di un completo abbandono del regime sanzionatorio da parte degli Stati Uniti. Il piano B non c'è stato. Kim, come alcuni di noi si aspettavano, non è stato disposto ad abbandonare totalmente il programma di sviluppo nucleare e quindi sostanzialmente ci ritroviamo di fronte, se vogliamo, a un pareggio tra i due personaggi, ma tra i due protagonisti di questo processo, ma a uscirne fortemente indebolito è sicuramente il presidente Trump, anche in virtù del fatto che le elezioni presidenziali statunitensi si avvicinano, insomma, anche questo potrebbe giocare a sfavore del presidente. Ecco, tra l'altro in molti lo hanno criticato proprio per la decisione di condurre i negoziati in prima persona, cioè di volerci mettere anche un po' la faccia e la firma, quando di solito non sta appunto al capo di Stato condurre questo tipo di negoziati, ma più a funzionari e diplomatici. Questo è un punto davvero molto spinoso, quello che tocchi, è sicuramente vero, probabilmente questo ha più a che fare con, e con questo non intendo declinare l'analisi della questione che tu proponi, probabilmente, insomma, questo ha veramente molto a che fare anche con la personalità del presidente Trump e qui mi astengo da ulteriori commenti anche perché non mi competono. Per quanto riguarda come e in che tempi, in che modalità sono state condotte le reazioni, se è stata portata avanti la comunicazione anche diplomatica con Pyongyang, sicuramente qualcosa non ha funzionato. Peraltro ricordo che uno degli artefici, insomma, di un qualche dialogo con la Corea del Nord fu l'ex segretario di Stato Tillerson, poi sostituito da un personaggio come Mike Pompeo, che insomma viene dal mondo dell'intelligence, non è sicuramente una colomba, anche se poi, insomma, anche lui, in quanto segretario di Stato, è stato più volte protagonista di viaggi a Pyongyang, di interazioni con il regime nordcoreano. Ma questo solo per dire, senza dilungarmi eccessivamente, che c'è stato un frazionamento molto evidente rispetto alla conduzione di questo processo da parte statunitense. Questo non ha a che fare soltanto con la Corea del Nord, ma se si pensa per esempio alla vicenda del segretario della difesa Mattis, che si è recentemente, insomma, che sono recentemente un po' allontanato, un po' autosospeso, si ha in qualche modo un'analisi, un quadro analitico un po' più chiaro rispetto a come vengono condotti certi tipi di processi all'interno dell'amministrazione americana in questo momento. Ecco, invece, spostandoci, diciamo, dall'altra parte, quali saranno, secondo te, quali potrebbero essere le conseguenze, appunto, di questa fine così brusca del summit, se ce ne saranno? Nel senso che Trump ha detto che comunque Kim Jong-un gli ha garantito che avrebbe continuato a non fare test nucleari e missilistici, però insomma, se secondo te ci sarà un passo indietro rispetto a quelli che dicevi sono stati gli sviluppi positivi di quest'ultimo mezzo anno. Ma stando a quello che dice Trump, il dialogo dovrebbe andare avanti, sotto che forma non è ben chiaro, non so se sia chiaro a lui, e questa è la cosa che ovviamente è più urgente da comprendere. È difficile rispondere alla domanda che mi stai ponendo. Posso dire che, a parte gli Stati Uniti e la Corea del Nord, che sono naturalmente protagonisti di primo piano di questo processo, ci sono altri attori che non sono assolutamente secondari, e mi riferisco in particolare alla Corea del Sud e alla Cina. Il dialogo tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, con degli sviluppi concreti, quindi sul terreno, con progressi evidenti, sta andando avanti. Ora, dove questo porterà è un'altra questione, ma è sicuramente positivo il fatto che questo canale di comunicazione sia aperto, e sia aperto in qualche modo anche in una dimensione autonoma rispetto alle relazioni tra Pyongyang e Washington. Quindi la stabilità dell'area dipende molto, molto anche da che tipo di relazioni, da come si struttureranno le relazioni tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Questo è ovviamente un argomento molto, molto cruciale, direi, per capire che cosa ne sarà dell'Asia nord-orientale. Per quanto invece riguarda la Cina, la questione è anche lì abbastanza interessante, dal momento che c'è stato un certo raffreddamento delle relazioni tra i due paesi, che spero metta in chiaro finalmente che la Corea del Nord ha una politica interna ed estera completamente autonoma rispetto a celate e ventilate influenze cinesi. Senza dubbio in questa fase si sta sviluppando un rapporto abbastanza sereno tra la Cina e la Corea del Nord, e ovviamente se ciò dovesse rimanere valido per il prossimo futuro, naturalmente sia la stabilità che la pace, che insomma una conduzione delle relazioni diplomatiche nell'area, non potrà che trarne vantaggio. Naturalmente il fattore statunitense è un fattore molto influente, è un fattore dal peso specifico innegabile, e quindi uno sgretolamento delle relazioni tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti ovviamente potrebbe avere degli effetti anche sulle relazioni tra la Corea del Nord e la Cina e la Corea del Nord e la Corea del Sud. In questo momento, ad ogni modo, i tre paesi, quindi Corea del Nord, Corea del Sud e Corea del Nord e Cina, stanno vivendo sicuramente una fase di relazioni positive.